Lei è? Che cos'è? Senta. Un giaguaro? Ma chi? Un cammello? Limone sono. No, non è un limone. C'è qualcuno in casa? Lei! È un signore? Sì. C'è qualcuno in casa? Se ne vada, signore, per favore. Altrimenti, chiamo la Repubblica. Ma chi? Ho un ombrello qua dentro. Eh? L'ammazzo con l'ombrello. C'è qualcosa da mangiare in questa casa? L'ammazzo come un cammello con l'ombrello. Che fa? Santa Repubblica? Fa che i tuoi messaggeri lo buttino fuori. Fa che caschi dalla finestra, fa che sprofondi nella terra e si rompa in tanti pezzi. Sia buono, signore, non mi faccia bollire. Se ne vada, signore, per favore. Non le posso dare la casa, perché la metà di destra, quella con la sala da pranzo, appartiene a mia sorella. Io ho soltanto la sinistra. Ma posso darle un anello? Questo? Ma che anello? Un letto. Ah, un letto. Non se ne vada, signore, per favore. Sono buona, sarò buona, ma sono sempre stata buona. Che fa in quell'armadio? Che ha detto, signore, scusi? Che fa in quell'armadio? Ho un ombrello qua dentro, sono cattiva. Ho ammazzato migliaia di scarafaggi con l'ombrello. Ma lei capisce o non capisce? Se ne vada, signore, per favore. Prenda l'anello, è della mamma. In cielo. Oh, non capisce niente. Buonanotte. Buonanotte, se ne va? No. Ma lei aveva tutto il mondo. Lo sa quanto è grande il mondo? A 1000 miglia almeno e tanti secoli di qua e di là. È proprio in casa mia, buon signore, ma proprio qui doveva venire. Fuori c'è scritto proprietà privata. Ma forse lei non sa leggere. Che non sa leggere un cammello e io l'ammazzo con l'ombrello. Santa Repubblica, fa che si svegli. In cielo, entra anche tu dalla finestra senza far rumore e buttalo giù col letto su un camion che se lo porti fin dove finisce il mondo. A 10 chilometri almeno da qui. Non voglio un signore in casa, hai capito? Non voglio un signore in casa. Spia d'una spia? Brutta scimmia col cappello storto! Scimmia col cappello storto, con l'ombrello e con l'anello nascosta nell'armadio. Ma sono queste le belle maniere? È stata lei, eh? Ho capito tutto. Ah, sì? Lei deve essere un signore molto istruito. Sono maniere queste? Quella è una catena. E la chiave del lucchetto? Non serve più. Che vuol dire non serve più? Il guercio non l'ha potuto portare via perché il letto non passa per la porta. Che guercio? Il guercio? Ce n'è un altro? Beh, ce ne sono parecchi di guerci. L'unico guercio è il figlio di mia sorella che ogni mattina mi porta da mangiare. Ma quanti guerci crede che ha fatto? Mia sorella. E la chiave? Quale chiave? La chiave del lucchetto. La chiave non serve perché il letto non passa per la porta. È la 7ª volta che glielo spiego. Ma ha chiamato la polizia? Ma io non ho fatto nulla di male. Perché avrei dovuto chiamare la polizia? Ha detto a questo guercio che sono qui. Gli ho detto che avevo un giaguaro e che forse era un cammello. Mi vergogno di dire che ho un signore in casa. Quante signorine hanno un signore legato al letto? Si possono contare con le dita dei piedi, immagino. Insomma, questa chiave me la dia! La chiave non serve perché il letto non passa per la porta. È la 12ª volta che glielo ripeto. Ma mi fa male la catena. Più soffre, prima sale in cielo. Qui alla caviglia. Allora, vuole che le leghi la zampa sinistra? Ma quella è la sinistra. No, quella è la destra. Mi scusi, ma i piedi lavuti sempre in quell'ordine lì e quella è il sinistro. Lei deve aver perso l'orientamento. Guardi me. Questa qui è la zampa destra. Sì, ma se si mette come me vedrà che è alla sinistra. Dovrei sdraiarmi sul letto, non mi va, caro signore. E io non ho zampe, ho piedi. Prima bisognerebbe addormentarlo. Addormentarmi? Con l'ombrello sulla testa? E se poi sale in cielo? Lei vuole? Io gli scarafaggi li mando in cielo con l'ombrello sulla testa, grossi così. Ma lasci stare quell'uomo. Vuole un po' di cherosene? Ma lei chi è? Io? Io. Come si chiama lei? Io mi chiamo Elisa Pt. E la casa si chiama proprietà privata. È mia e di mia sorella. Era della mamma che è salita in cielo dentro un recipiente di legno nero lucido con 6 maniglie. Mia sorella non è salita in cielo, io nemmeno. C'è una gran confusione in queste cose. Bisognerebbe salire in cielo tutti insieme. Ci vorrebbe uno di quei camion doppi con la coda. Vorrei sciacquarmi la bocca. Ha visto il globo in giro? Il globo? Io non ho visto nessun globo in giro. Dorme qui di notte. Dorme il globo? Non capisco, scusi. Lei è scusato, buon signore. Eppure era legato anche lui. Ma si può sapere di che cosa sta parlando? Legato? Ha la coda anellata e le orecchie a strisce. Non l'ha visto in giro? Ma perché lei lega il gatto? È meglio legarle le cose che si muovono. Il tempo, per esempio. Ma non ha zampe. Chi non ha zampe? Il gatto? Il tempo. Lei invece ne ha 2, il globo addirittura 4. Ma perché lega il gatto? Perché non esca. È troppo pericoloso. Perché lei non esce per caso? Io non esco né per caso né per appuntamento, sono una signorina. Ma il tempo e il globo non sono signorine, non sanno stare ferme in un posto e così il gatto torna graffiato. E il tempo? Il tempo torna sempre più vecchio. Oh, ma fino a quando dovrò rimanere legato qui? Mi fa male! Ma allora vuole che l'addormenti e che le leghi l'altra zampa? Oh. Mi metta piuttosto qualcosa di morbido sotto la catena. Eh sì, buon signore. Qualcosa che faccia da cuscinetto. Non va. Ma uno straccio, insomma. Di che colore? Eh? Qualcosa, qualunque cosa. Ma davvero lei non è un giaguaro? Quanti anni ha? È un signore molto vecchio? Oh, quello è un uovo di marmo, non è un uovo vero. Questo? Lasci perdere. Mi dia piuttosto qualcosa da mangiare. Un uovo, appunto. Quello è un uovo repubblicano per gli occhi. Lei, quando sta per diventare cieco, se lo mette sugli occhi e rivede come prima. Ne ho altre 4 in cucina, ma allora quelle sono vere figlie di gallina. Crude? Le galline? Ma no, le uova, le uova. Sode? È passato tanto di quel tempo ormai. Va bene, mi faccia vedere. Sì, buon signore. Ecco qui, queste 2 sono le più robuste, ce n'erano 4 un tempo, ma dopo tanti mesi le altre 2 sono esplose. Ma questa casa è un manicomio? No, signore, questa casa è la mia tomba, non ha visto la scritta, proprietà privata. Tutte le tombe sono proprietà privata, ma forse lei non sa leggere? Chi non sa leggere un cammello, io l'ammazzo con l'ombrello. Ma lei che ne sa della tomba? Me l'ha detto mia sorella. Resta lì se vuoi che sarà la tua tomba. Gli altri io li vedo. Non hanno ancora trovato la tomba loro e girano, girano, girano in cerca della loro tomba. Io invece ce l'ho, sto bene sistemata. Ma la tomba è privata. Per questo l'ho legato con la catena. Ma il guercio dice che non passa per la porta. Ha detto che avrebbe fatto venire il guardiano del giardino. Su. Qui? Sì, qui. Ma dove altro vuole che vada? Lei capisce sempre meno. Ma a che fare? A che fare che cosa? A che fare il guardiano del giardino zoologico. Io non volevo dirgli che lei era un signore, perciò gli ho detto che avevo un giaguaro col lucchetto. Il guercio voleva vederlo, ma non l'ho lasciato entrare. Oh, e adesso arriverà una spia del giardino zoologico. Non l'ho lasciato entrare perché è meglio non far entrare i parenti nella propria tomba. Tantomeno il guardiano del giardino. Zoologico. Parla come una morta. Morta? Vuol dire morta, ammazzata? Ma io non sono uno scarafaggio, sono una signorina nella sua tomba privata. Va bene, signorina. Mi può dare qualcosa da mangiare, prego? Sì, va bene, preghi. Ma che prego? Ho detto prego. Eh sì, e per mangiare bisogna pregare. Ma che vuol dire? Lei si inginocchia sul letto e ripete: se prega come la Repubblica comanda, le darò la metà del pane, la metà del salame. E acqua vorrei anche. Lei è così divertente, ci divertiremo moltissimo insieme. E poi di quell'acqua ce n'è ancora tanta. Ma preghiamo insieme, signore. Ma che devo pregare? Io dico la preghiera, lei ripete. Si inginocchi, ripeta: Santa Repubblica. Santa Repubblica. Insegnami a leggere. Ma io so leggere. Quando uno prega non bisogna vantarsi, non bisogna mentire. Insegnami a leggere. Insegnami a leggere. Dammi in questa tomba. Dammi in questa tomba. La metà del pane, la metà del salame. La metà del pane e del salame? Manca la metà del salame. Vabbè, manca la metà del salame. No, ho sbagliato. Pazienza, lassù capiranno lo stesso. Fammi diventare ancora più... Come? Fammi diventare ancora più divertente. Fammi diventare ancora più divertente. Nella proprietà privata della signorina Elisabetta. Nella proprietà privata della signorina Elisabetta. Bene, e adesso il pane e il salame. Nel frattempo lei continua a pregare e ne approfitti, perché la Repubblica lo sta ascoltando. Bambino, sta fermo accanto alla siepe. Preghi, signore, preghi con me che se ne vada. Voglio la chiave del lucchetto. Quella non è una preghiera. Ecco che si è mosso. Cammina. Sta inseguendo un uccellino con la fionda. Longobardo! Preghiamo insieme, signore. Oh, che strazio. Ecco che si allontana. Saraceno! Certi giorni il mondo preme. Ma forse è ancora piccolo. Non sa leggere. Che fa, signore? Due passi? Oh, insomma, mi leva o non mi leva questa catena? Le ho portato un abito da notte. È più comodo per stare a letto. Ma è un vestito da notte da donna? È della mamma? In cielo? Ma non lo voglio! Voglio andarmene! Come si chiama lei, signore? Gliel'ho già detto, mi chiamo Limone. Sa giocare a campana, signor Limone? A che? A campana? Bisogna saltare con un piede solo. Ma lei è un mostro, una pazza. Ah sì? Le pare? Quantomeno non sono un limone che entra dalle finestre delle proprietà private. E se il letto passasse per la porta, il guercio se lo sarebbe già portato via. Non deve dire a nessuno che sono qui. Lei credeva che la casa fosse vuota e ha detto: ecco una bella tomba che fa per me. Ma la tomba era occupata. Se sapesse leggere. Ma io so leggere. Mi dia qualcosa di scritto e le faccio vedere. Legga. Vediamo. Legga. Vediamo. Legga. I coniugi. Ruta. Domestica. E domestica. Annunciano. Sì. L'improvvisa. Scomparsa nel sì. Nel cuore della notte del diletto figlio Paolo. Un povero Paolo. Ieri è venuto a mancare dopo atroci sofferenze. Sì. Ma sono tutti annunci funebri. Lei è così divertente che ho pensato di tenervelo finché rimane in vita. Avevo un cane una volta che è salito poi in cielo, dalla terra al cielo. Ma guardi la caviglia sanguina. Vuole un po' di carta assorbente? No, voglio la chiave del lucchetto. Fa la scimmia. Limone è un nome da scimmia. Ma lei è una scimmia. Non è vero. Un disegno di una scimmia, ma non ho nemmeno la punta di una coda. Beh, ce l'ha sotto. E sotto che cosa? Sotto il vestito. Non è vero! Ah, qui, in questa casa, non vive nessuno, nessun altro. Questa casa, signor Lemone, è un vero albergo? C'è il globo, c'è una colonia di formiche, giù in cantina c'è un'intera università di topi, sotto il tetto ci sono i pipistrelli, sui muri le lucertole, bestie, mosche, mosconi, vermi, scarafaggi. E ora c'è pure lei. Mi hanno detto che i signori sono cattivi. Ma io non sono cattivo, lei è cattiva. Un limone che entra dalle finestre delle tombe. Ma da una tomba, vengo. Da una tomba all'altra. Vuole sentirmi cantare? No. E allora si spogli, per favore. Perché? Per curiosità, non ho mai visto un signore spogliato. Oh, insomma, mi leva o non mi leva questa catena? Ma è più divertente stare in due in una tomba. Io so cantare, so ballare e so anche recitare. Lei che cosa sa fare? Oh, lei è più matta delle 11.000 vergini messe insieme. La la la la la. La la la la. Finestra? Perché chiude? Ma vuole che entri un altro signore dalla finestra? Ma chi vuole che entri? La polizia, forse? La polizia si occupa, appunto, di non far entrare i signori dalla finestra. La polizia bussa alla porta delle tombe. Lei deve completare la sua educazione. Ha letto il giornale? Ma se è un giornale vecchio, che mi ha lasciato? Io l'ho letto per anni, è pieno di delitti. Il più bello è... trentenne, uccide moglie cinquantenne e la fa bollire. I pezzi saranno stati spediti in cielo, per posta o per le solite vie. Ma come è stato spedito in cielo il brodo? Lei sa dirmi come è stato spedito in cielo il brodo? Ma io che ne so? Le deve completare la sua educazione. Ed ora perché si è messo quell'affare sulla testa? È una conciatura, ne ho parecchie. Troppo silenzio qui. Vuole ascoltare un disco? Ho poche puntine vecchie, 10 anni almeno, ma con un po' di ottimismo si ottiene tutto. Ottimismo, ottimismo, è quel che ci vuole in una tomba privata. Ma lei, perché vive così? Ciascuno fa la vita sua, no? Sì. Alcuni fanno una vita così stramba. Io ho deciso di fare una vita normale, nessuna agitazione. Non capisco perché gli altri si agitino tanto tra indiani nascosti, crepi, terremoti, mosche, mosconi, vermi, scarafaggi. Ma, sì, signorina? Sì, signorina? Sì. Ma non vede mai nessuno? Caro signor Lemone, se lei sapesse com'è la gente, le passerebbe la voglia di vedere che sia. Certo, se non legge i giornali. Oh. Lega l'articolo... Esce di casa e non fa più ritorno. Il suo cadavere non è ancora stato ritrovato. Ma da quanto non esce? Da quanto? Non so. È passato tanto tempo. E perché? Perché non vuole uscire? Credo che ho avuto un'impressione una notte di luna. Da quel momento non sono più uscita. Poi la mamma si è trasferita in cielo. Capisce? Insomma, non molto. Lei deve completare la sua educazione, signor Lemone. Pensi che mia sorella è sposata? E vuol credere che non ha mai saputo dirmi se suo marito è un diavolo o un vero signore? Io le ho chiesto, ma tuo marito la notte si trasforma in giaguaro, in cammello? E lei mi risponde che suo marito la notte dorme. Oh, e tu che fai? Domando. Anch'io dormo, risponde. Ma se dormi, come fai a sapere che lui sta dormendo? Non ci si può fidare più di nessuno, signor Lemone. Fanno tutti finta di dormire. Come lei. Ma io non sono un diavolo. Perché la tengo legata? Ma se la slego, chissà che razza di bestia diventerebbe. E comunque ora vado di là a fare il bagno. Perché? Ha l'acqua corrente? Abbastanza corrente. C'è un buco nel tetto e quando piove l'acqua corre davvero. Sotto c'è il grande catino serbatoio. Ho pompe, tutti i comfort moderni, catine dappertutto. Ogni mattina in ogni catino trovo un topo annegato. D'estate invece l'acqua manca perché non piove mai. I topi fanno l'università. Me li ritrovo in ogni stanza. So fare vestitini per topi. Topo vestito se ne va in città. Anche gonnelle sono veri e propri civetti. Anzi, veri e propri civettoni. Una penna ficcata nell'orecchio, il topo non torna più. In città vanno al cinema. Un nastro rosso legato intorno alla pancia che si è visto. Bel lavoro fare gonnelle per i topi. Quello sì che è un lavoro inutile. Mi dica lei quale lavoro utile fanno nelle altre tombe. Barrio plateado por la luna, humor de milonga, resto da tu fortuna. Hay un cuello que resonga. Vuole fare il bagno anche lei, signor Limone? Ecco l'acqua e il sapone. E quel bicchiere? Ah, per versarsi l'acqua sulla testa. Ma secondo lei dovrei fare il bagno in un piatto con un bicchiere? L'ho già detto 65 volte che il letto non passa per la porta. Sì, ma se mi leva la catena? No, dovrà farlo in piedi sul letto. No, grazie, non ci sto. Non sia buono, voglio tanto vedere come fa. Ma no, signorina, io non mi spoglio davanti a lei. Allora lei è un diavolo alla coda. Ma non è vero. Allora perché non si vuole spogliare? Ma perché ho una solida morale, io non sono un diavolo. Intanto per cominciare, lei è entrato dalla finestra. Le persone normali come me bussano alla porta d'ingresso, o almeno bussavo quando uscivo. Ma io sono un evaso. Poi la mamma si è trasferita in cielo. Non sa che cos'è un evaso? È un mestiere, una malattia. Ma sono scappato dal carcere. Perché? Non stava bene? Ma qui sarà benissimo, finché sarà legato, faccia conto di stare nella sua tomba. Faremo tante belle chiacchiere insieme. Ottimismo, ottimismo, è quel che ci vuole in una tomba privata. Ma non posso rimanere qui legato. Le ho detto che finché sarà legato, faccia conto di stare nella sua tomba. Non sa come mi diverte lei, come mi diverte che lei sia qui. Ma almeno ha una radio o la televisione. Vuol dire i matti? Ce l'ha mia sorella. Anche a me piacerebbe di vedere i matti. Avevo una radio una volta, ma senza corrente non si sentiva nulla, e così l'ho bruciata. E perché mai l'ha bruciata? È perché è una stufa. D'inverno metto i mobili nella stufa. Una tomba va riscaldata, visto che il resto del mondo sa scaldarsi da solo. Pure i mobili? Quella è l'ultima sedia. Prima ce n'erano dappertutto. Nella sala da pranzo, che come l'ho già detto appartiene per contratto e per testamento a mia sorella, c'era persino un pianoforte. Poi lei mi disse: quei mobili lì vanno bene solo per fare fuoco. Eddio, signor Limone. Con l'accetta mi diverto. Il pianoforte faceva un gran rumore, saltavano tutte le corde. Ci si diverte a fare a pezzi i mobili, specie se si pensa che non servono a nulla. La biblioteca è durata 2 inverni. Ma pure i libri? Erano tutte enciclopedie sull'allevamento di suini. Lei sa allevare i suini, signor Limone? Non ho mai avuto un suino. Ma le mie preferite sono le sedie di femmini. Fanno un bello odore, una bella fiamma. Un giorno ha nevicato e qui tutto intorno alla finestra c'era una gran bella roba bianca e dal buco del tetto pendevano i ghiaccioli. Tutto era così bianco che sembrava una regia, e mi son detta: Elisabetta, sei arrivata in cielo. Ma il giorno dopo era tutto quanto nero. Tra poco verrà a prendermi la polizia. Oggi o domani. Perché? Cosa ha fatto? Un bel delitto? Da giornale? Sì. Sono finito sui giornali. Per far un piacere ad un amico. Mi racconta il suo delitto? ha fatto bollire le sue mogli? Ma che? Ho profanato, così dicono, ho profanato una tomba. Un'altra? Per questo credevo che i suoi discorsi... Ma è stato divertente. Che cosa? È profanare l'altra tomba. Ma che è stata una sciocchezza. Non credevo che fosse così sciocco. Chi? Il morto che era nella tomba? Ma no, i morti non sono mai sciocchi. Ci vuole ben altra energia. Ma il mio amico... Mi racconti il suo delitto? Di chi era il cadavere? Come mai non era stato trasferito in cielo? Era un calciatore. Molto, molto famoso. Anch'io una volta ho visto un calciatore in quel prato lì. Ha dato un calcio a un sasso ed è rimasto zoppo. E quello lì ha dato un calcio a un sasso troppo grande. Così è morto. Oh no, ha avuto un incidente aereo con un toro. Si è scontrato in aria con un toro? Ma no, lui voleva fare il paracadutista e un giorno è sceso con il suo paracadute rosso in un pascolo. Lì nel pascolo c'era un toro con le corna. Insomma, ecco l'incidente. Il mio amico era un suo tifoso. Mi racconti il suo delitto? L'avete fatto bollire? No, il mio amico voleva il cuore del calciatore da tenere in un vaso con la varichina. E così mi chiese aiuto prima che il cuore andasse a male. Dovevo scassinargli il cancelletto. Poi lui entrò nella bara, ma non trovava il cuore. Ma il cuore è qui, sotto questa mammella. Sì, ma chissà dov'era per via del toro. E così si prese il fegato per non andarsene a mani vuote. Poi ci scoprirono, io finì in galera, il mio amico in un manicomio criminale. Dopo 6 mesi lo lasciarono uscire. Le pare giusto? Ma come mai il cadavere non era stato trasferito in cielo? A me non pare giusto. No, le ho chiesto come mai il cadavere non era stato trasferito in cielo. Era lì al suo posto, nella bara. Ma il fegato almeno l'hanno mandato in cielo? Gliel'hanno rimesso, credo, dove era prima. Oh, vuole ascoltare un disco allegro? No, è una storia triste. Ma certo che il suo amico avrebbe prima potuto acquistare la salma dai parenti. Ma quanto crede che possa costare una salma, signor Limoni? Così mi hanno condannato. Così imparano a non andare per tombe, a rubar fegati. E così sono scappato. Ma com'è bello stare in due in una tomba. Lo sa che lei è il primo signore che mi lega al letto? Sì, sarebbe ora però che lei mi slegasse, no? Ma cosa sta dicendo, signor Limoni? È diventato pazzo anche lei? Così domani scriverebbero sui giornali: trentenne uccide signorina nubile e la fa bollire. Elisabetta, prego. Per pregare deve mettersi in ginocchio. Ma il brodo, signor Limoni, come farebbe a salire in cielo il brodo? Ma insomma, vuole tenermi sempre qui, legato a letto, con una catena come un deficiente. Io la chiamo perversità. Signor Limoni, non faccia il cammello. Se non mi dà la chiave del lucchetto, prendo quei fiammiferi e do fuoco al letto. Perché? Ha freddo? Vuole un'altra coperta? No, voglio la chiave del lucchetto. Ma cosa posso fare per accontentarla? Vuole fare il bagno anche lei? Ecco l'acqua e il sapone. No, voglio andarmene. Domani sera ballerò per lei. Ma mi lasci andare? Ma dove? In qualche altra proprietà privata, dalla finestra aperta? Ma pensi alle molte serate divertenti che passeremo insieme? Ah, tantissime. Ha visto il globo in giro? No. Quel gatto veramente non ha paura di uscire. Non sa. Ha una testina così piccola. Fuori c'è un mondo pieno di delitti. Si riposi, buon signore. Signor Limoni, signor Limoni, signor Limoni, indovini chi sono? Ma che le salta in testa? Io non ho nulla che in testa mi possa saltare. Le pulci non salgono tra i capelli. E anche se qualcuna fosse andata a finire per caso in questa testa, non avrebbe più nessuna voglia di saltare. Anch'io mi sentirei una disgraziata in una simile matassa. Ma perché lei c'ha le pulci? No, D'estate, quando escono dal pavimento, le raccolgo col globo, gli metto una bella cordicella intorno al collo e gli faccio fare il giro delle stanze. Lui ha quell'odore di gatto così benestante, tutte le pulci gli saltano addosso, poi esce, si scuote, le pulci cadono a terra e iniziano a saltare. Saltano, saltano, saltano, finché non cascano fritte sotto il sole, le ho viste io. E comunque sono pulci da gatto, non mordono le persone, anche perché si accascerebbero al suolo come avvelenate colpite da un fulmine. Noi umani siamo velenosi, in genere. Ma voleva spaventarmi con quella maschera lì. No, ma non si deve spaventare. Quella era la faccia del bene. Questa, invece, è la faccia del male. Va bene, lasci perdere le maschere. Mi dia piuttosto la chiave del lucchetto. Volevo farle una rappresentazione nel mio teatro. Lo faccio a volte davanti allo specchio grande. Faccio da sola le due parti. Il bene litiga con il male. È divertente. E quella buona sarebbe la faccia del male e quella cattiva la faccia del bene. Per me dovrebbe essere il contrario. Caro signor Lemone, se le fosse più istruito capirebbe molte più cose che non può capire perché non è abbastanza istruito, certo se non legge i giornali. Oh, ma siamo qui per divertirci, non per parlare di geometrie. Posso farle la rappresentazione? Oh, sì, sì, faccia pure il suo teatro, cattiva villana torturatrice. Legare un uomo al letto con una catena, poi come in piena monarchia. Faccia. Faccia pure il suo teatro. Attenzione, attenzione. Il bene litiga con il male. Litigano per il possesso del mondo. Dammi il mondo, brutto bene. No, non te lo voglio dare, sei troppo cattivo. E tu non ti sei mai visto allo specchio. Non è colpa mia se il bene è brutto, è comunque più buono del male. Voglio mangiarmi l'universo, dammi la tua metà. Ma la mia metà te l'ho già data. Ma io voglio mangiarlo tutto, dall'Oceano Atlantico alla Via Lattea. Anga, anga. Scusi, che cos'è la Via Lattea? È lì, sopra la sua testa. Oh, ma lei non deve interrompere. Ricomincio. Anga, anga. Signorina, scusi, ma chi è il bene, chi è il male? Questa non è una commedia, è una confusione. Gliel'ho già detto, il bene è brutto, il male è bello. Ma lei non deve interrompere. Sì. Ricomincio. Anga, anga. Scusi, signorina, ma scusi, per me il bene è bello e il male è brutto, no? Caro signor Lemone, non posso a quest'ora della notte spiegare la differenza tra il bene e il male. Comunque a teatro gli spettatori non fanno domande agli attori. Ricomincio. Signorina, scusi. Ma questo però non è un teatro. No? Le pare. Dove ci sono due persone è un teatro. E anche se la persona fosse sola è un teatro, e anche se la stanza fosse vuota è sempre comunque un teatro. Ma per capirlo ci vorrebbero sette teste come la sua. Io ricomincio. Voglio mangiarmi l'universo, dammi la tua metà. Ma la mia metà te l'ho già data, ridammela. Ma io la voglio tutto. Ecco, vedi, con te si finisce sempre per litigare. Signorina, questa storia del bene e del male è troppo noiosa, ecco. Ah sì? La noia? Eh sì, mi annoia. Pensi che sono 150.000 anni che si stanno accapigliando. E poi io non ci credo. 150.000 anni, lei che ne sa? La mamma me lo ha raccontato. Anche a me spiace che stiano sempre litigando, perciò quando faccio la rappresentazione avanti faccio vincere il bene, a volte faccio vincere il male. Lei per chi patteggia, signor Limone, per il bene o per il male? Io patteggio soltanto per la chiave di questo lucchetto. Voglio andarmene. Ma c'è troppa luna. Le stelle stasera non si vedono. A lei piacciono le stelle, signor Limone? Sì. Insomma, non ci ho mai pensato. Non c'è bisogno di pensare, basta guardarle. Quando non c'è la luna sembra qualcosa. Oh, veramente non le posso dire. Tutto il resto, il giorno, le piante, la gente, non sono niente. Mi prende qualcosa. Sono contenta senza ridere. E quelle che si muovono così piano, piano, piano, piano, che non si vede nemmeno, sono la mia repubblica. Ma chi ha potuto inventare una cosa così intelligente, signor Limone? E guardi che non ci voleva una grande intelligenza per inventarlo. Il buio nero e qualche puntino di luce. Ma tanti, e sempre uguali. Pensi che da quando guardo le stelle che non sono nel mondo, capisco il mondo, capisco me stessa. Perciò non le voglio guardare troppo spesso, perché capisco troppo. Da quando mi hanno tagliato la corrente, posso vedere la cosa più intelligente che esiste senza pagare nulla. Prima ero una sciocca, non le conoscevo, ma forse sono l'unica che le vede. Mia sorella le guarda come se fossero delle ragnatele, né più né meno. Quella sarebbe in grado di ripulire il cielo, se potesse. Ma il buffo è che le guardo e non penso a niente. Qualcuno mi ha detto che fanno male. Oh, ma si sbaglia, come fanno bene. Per me, chi non guarda le stelle è uno sciocco, non capirà mai niente, non può capire. Ed io non le posso spiegare ciò che non può capire. Non è questione di parole. Ma vedrà, una notte, quando non c'è la luna. A me piace la luna. Anche la luna è bella, quella orgogliosa. Fa certe fantasie con le nuvole. Ma è roba della terra, anche se è bella. Penso che anch'io avrei potuto inventarla. Va bene, ma adesso basta con la luna e le stelle. Mi levo o non mi leva questa catena? Vuole che metta un disco nel fonografo? No, voglio andarmene. Ma non le piace stare qui? No. E allora perché è venuto? Signor Limone, lei è un capriccioso, è come il male. Non sa quale metà vuole. Buongiorno, signorina, scusi. Signorina, scusi. Lei è il guardiano del giardino zoologico? Volevo domandarle come vanno vestiti quest'anno i topi in città. Veramente? Oh, sì, veramente. Io non le ho chiesto una bugia. Che dice una menzogna, finisce nella fogna. Scusi, signorina, lei che vuole sapere? Ma i gonnellini sono lunghi o corti? E i cappellini, come li preferiscono, di carta o di stoffa? Ma chi, i bambini? E i topi! Non so che dirle, signorina. Il fatto è che suo nipote, Igor, ha raccontato in paese che lei è un giaguaro legato al letto. Lei parla del cammello? Oh, ma non è un cammello? No. Parlo di un giaguaro che lei tiene legato al letto. Il fatto, ecco, è che il mio superiore mi ha mandato a vedere. Perché? Oh, lui non vede? No, il fatto è che per questa sorta di belve selvagge in stato selvatico occorre un permesso, nonché un apposito guardiano, nonché la gabbia collaudata dal genio civile e l'attestato di sanità morale del proprietario, unitamente alla patente di agibilità, al diploma parificato di domatore, unitamente allo stato di famiglia, al certificato di buona condotta della belva feroce in questione. Immagino che lei parli del cammello, ma le ho già detto che non è un cammello! No, signorina, parlo di una tigre o di un animale domestico del genere che ha detto suo nipote, ha detto il guelfo. Caro colonnello, se lei non sa dirmi come vanno vestiti quest'anno i topi in città, dubito che possa distinguere tra una tigre e un cammello! Va bene, signorina, posso entrare a vedere? No, lei non può entrare, ha già abbastanza bestie in casa. Ma nessuna tigre, gliel'assicuro. Quel ragazzo ha una lingua così lunga che appena lo vedo prendo le forbici, gliela taglio e anche qualcos'altro gli taglio. Le orecchie! Ma solo uno sguardino per vedere se è tutto in ordine. Che ha detto, signore, scusi? No, dicevo solo uno sguardino per vedere se è tutto in ordine. Qui è tutto talmente in ordine che sembra addirittura il Parlamento della Repubblica. Se ne vada, buon generale. Va bene, signora, se non mi vuole lasciare entrare me ne vado. Ma mi dispiace, dovrò tornare stamattina stessa unitamente a un mandato di inquisizione. Vuol dire col capo del giardino zoologico? No, con il capo mio unitamente a un mandato di inquisizione stamattina, ecco. Sa, lui non vorrebbe che lei finisse sbranata, ecco. Dica al suo capo che non so perché si occupa degli affari del giardino zoologico, visto che non è il capo. E se tanto lo vuole sapere, io ogni mattina alle 9:30 mi faccio sbranare dalle belve più raccapriccianti con il permesso della Repubblica. Questa è casa mia, anche se la metà di destra, quella con la sala da pranzo, appartiene a mia sorella. Arrivederci. Ma signorina Elisabetta, non ti rifletta. Mi dispiace per lei, per il suo capo e per i capi di tutti i guardiani dei giardini zoologici della Repubblica, che non sanno nemmeno dirmi se i topi in città portano i gonnellini lunghi o corti. Buongiorno. Arrivederci allora. Signor Limone, è venuta l'autorità! Chi? Dove? Sono qua! Era un militare solo, ma ha detto che sarebbe tornato stamattina stessa, unitamente a un mandato di distruzione! Devo scappare, presto. Mi dia la chiave. Ma io non voglio che se ne vada. Ma vuole che mi trovino? Ma non cercavano lei, cercavano una tigre. Come una tigre? Ieri ho detto al guercio che avevo un giaguaro col lucchetto, ma pare che non si possano tenere bestie feroci in casa senza documenti. Ma giaguaro o meno mi trovano lo stesso. Ma se la nascondo sotto il letto? Sotto il letto? Sotto il letto mi trovano subito. Ma io mi sdraio sopra con l'ombrello, faccio la finta gallina morta. Diranno che mi sono ammazzata da sola, come mi sono torta al collo con l'ombrello. È un piano stupido. Mi dia la chiave. Ma io non voglio che se ne vada. Stasera volevo ballare per lei. Va bene. Stasera magari ritorno. Aspetto che fa buio e poi ritorno, forse. Ma col lucchetto? Se no mi fa paura. No, ma che lucchetto? Io non ritorno se so che mi lega. Se non ritorna non le do la chiave. Guardi, preferisco il carcere, piuttosto che star legato a letto con mezzo palmo di catena, poi. Ma posso darle una catena più lunga, come il globo, così potrà girare per tutta la stanza? No, se mi lega io non ritorno. Ma dove vuole andare? Sugli alberi? Ma un buco lo troverò. No, promette che ritorna e si fa legare. Ma signorina, non è umano. Ma preferisce stare in prigione, qui potrà fare vestitini per topi. Ha ragione, ma un uomo. Uomini o donne, signor Lemone, tutti sono legati. Ciascuno è ben legato alla propria tomba. E chi va in giro con quell'aria così sperduta è perché ha perso il filo che lo legava, lo sta cercando. Si vede da lontano. Non sono cieca. Ho visto molte cose da questa finestra qui. Senta, va bene, ma dovrò restare legato per quanto tempo? Oh, il tempo. Il tempo è meglio lasciarlo fuori. Promette che ritorna e si fa legare. Va bene, lo prometto, sì. Ma si sbrighi. Sì, sì, buon signore. Ma che fa, signorina? Scenda le scale. La porta si apre dall'interno. Ma ritorni, buon signore. L'erba era bagnata. Oh, che piacere rivederla! E la famiglia? Ma quale famiglia? Non so, non sarà nato senza una famiglia. Le cocciconi hanno l'obbligo di consegnare il prodotto solo nelle case di famiglia, come i saponi. A me, al posto della posta, portano il sapone. Non ho famiglia, ho fame e sono stanco. Stasera, che piede preferisce? Come che piede? Da legare. Non può girare scatenato qui. Preferisce il piede destro o quello sinistro? Non lasci perdere i piedi. Nel frattempo, ho pensato ad una cosa. Lei pensa troppo. Si dovrebbe sposare. Oh, ma cosa sta dicendo, signor Limone? Sarebbe come sposare il cane, visto che l'unico signore che conosco è lei. Io sarei il cane. Ma le pare gentile? Per via che è sempre legato. Al momento non sono legato. Dunque, ho pensato che forse sarebbe meglio se lei si legasse la catena alla vita. Più libertà nei movimenti. Senta, mi dia piuttosto qualcosa da mangiare. Ho soltanto carote, carote crude. Mi dia le carote. Non ha del pane? E il pane mi è caduto nel cattino, si sta asciugando. O vuole pan bagnato? Pane bagnato, mi porti le carote. Si leghi, buon signore. No, signorina, ho deciso di non farmi legare. Ma lei ha promesso. Ci ho ripensato. Signor Limone, lei è un immorale. Più immorale lei, con i suoi lucchetti e le sue catene. Chi promette fa l'indiano, non è più un essere umano, diventa diavolo, diventa trasparente. Ah, lei è un diavolo, fuori, torni nel suo pianile. Non la vedo di vetro, attraverso un bugiardo si vede tutto. E poi se mi leggo la catena alla vita, il lucchetto mi si infila nella pancia e la catena è fredda. La caviglia si gonfia, sulla pancia fa freddo. Si leghi allora la catena al collo. Le ho già detto che ho deciso di non farmi legare. E io chiamo l'esercito! Che esercito? Della Repubblica. È già venuto stamattina a cercarla. Ma me volevano? Una bestia qualsiasi. Hanno parlato persino di un cavallo, che io vado a letto con un cavallo. Oh, ma li ho lasciati dire, li ho lasciati entrare. Se ne sono andati con un porco spino annegato. Hanno scritto un verbale intorno al porco spino, insomma sul soggetto porco spino. Ma ora strillo. Ecco la belva senza documenti! Ma quanti erano? Due. Il militare di oggi è un ammiraglio. Il fatto è proprio questo, che non ho documenti. Quale documento le servirebbe? uno qualunque, una carta d'identità con un altro nome. Io ne ho una con un altro nome. Se si fa legare come ha promesso, gliela do. Una carta d'identità per me? A me non serve. Beh, un altro nome è un'altra vita. Ma dice davvero? Signor Lemone, chi dice una bugia? Il vento se la porta via. Bravo. Ma è sicura che non è un altro dei suoi imbrogli? No. Lei si approfitta di me perché è più intelligente. Col lucchetto? Sì, ma non c'è la chiave. Scatta lo stesso, ce l'ho io la chiave. Sì, ecco fatto, sì. Meno male, ora siamo al sicuro, torno subito. Ecco, signor Limone, ecco le sue carote, ecco il suo documento. Ma questa è una signora? È la carta d'identità della mamma, ma adesso può tenerla lei. Io ne ho una mia personale col mio ritratto. Ci ho disegnato tanti fiori sopra e poi li ho ridipinti all'acquarello. Ma chi crederà mai che sono una donna? E posso prestarle dei vestiti, ne aveva parecchi, era alta e grassa. Ma guardi, inoltre qui risulta che sono nato 62 anni fa. Io la credevo più giovane, ma lei sembra più giovane. Ma certo che sono più giovane, insomma questo documento non serve a niente. Guardi i capelli lunghi, nella fotografia la mamma. Ma può lasciarli crescere anche lei, a me crescono come i funghi, e anche la Barbara può lasciarsi crescere. Ma sua madre non aveva la barba. Oh, ma con il tempo le persone cambiano, diventano di tutti i colori. Le foto invece sbiadiscono, è per questo che vanno ridipinte. Si vede che la Barbara, la mamma, era sbiadita. Lei mi ha ingannato. Lei mi inganna continuamente. Mi sono lasciato legare per niente. Non ha fatto che adempiere alla sua promessa. Ebbene sappia, signorina, che questa catena qui intorno alla vita io me la sfilo quando voglio. Anzi, me la sfilo adesso. E io chiamo i pompieri. A quest'ora della notte. Non ha il telefono. Signor Limone, lei è un bugiardo. Io me ne torno nell'armadio. Signorina Elisabetta, sa giocare a campana? È facile, sa. Bisogna saltare su un piede solo. Signor Limone. Sì. Signor Limone, lei ha parlato di sposarmi. Ci ho riflettuto. Accetto! Non le ho proposto di sposare me. Le ho già detto che lei è l'unico signore che conosco. C'è però la questione del documento. È consentito ad una signorina di sposare la mamma? Non lo so, sono questioni di avvocati. Io non sono avvocato. Ecco l'anello di fidanzamento. Signorina, lei non sa quel che dice. Allora mi porga il piede e la catena. No, signorina, le ho già detto che ha deciso di non farmi legare. O mi sposo o si fa legare. No, signorina. E allora se ne vada. Ho finito le carote. Da fuori può trovare tutta l'erba che vuole. Ma signorina, è arrabbiata con me? Caro signor Limone, forse io non so quel che dico, ma lei non sa quel che vuole. Cercava una tomba con tutti i comfort moderni, persino una stufa, gliene ho data una. Voleva un documento, gliene ho dato uno quasi nuovo, col quale però può girare a testa alta in qualsiasi giardino zoologico della Repubblica. Sì. Ha chiesto la mia mano, io gentilmente gliel'ho concessa. Ora non la vuole, quindi se vuole rimanere, mi porga il piede e la catena. No, signorina, ma mi fa ancora male la caviglia. Il piede? O la denuncio all'esercito? Alla marina? All'aviazione! Va bene, signorina. Va bene, ma non stringa troppo. Se non stringo, si sfila. Ecco fatto. Adesso ritorni a letto, se no non posso uscire dall'armadio. Lei è una tiranna, una dittatrice. Meglio il carcere o la cella di isolamento. Signor Limone? Signor Limone, ha sonno? No. Ho dormito tutto il pomeriggio, sotto un cespuglio. Bene, mi aspetti, torno subito. Ecco qui. Ora le insegnerò a fare vestitini per tuopi. No, non voglio. Non ho voglia, ho fame. Il pane si sta asciugando, vuole pan bagnato? No, no, no, no, non mi piace il pane bagnato. E non mi piace cucire. Vestitini per toi, poi. Le ho già detto che è un lavoro stupido. Tutti i lavori sono stupidi, signor Limone, poi ci si abitua. Beh, ma poi che cos'è quest'idea di cucire i vestitini per topi? Perché non per le galline o i conigli o il gatto? Debbo spiegarle tutto. La sua educazione lascia molto a desiderare. Vabbè, comunque per me è una pazzia. Il fatto è questo. I topi sono nudi e poveri. Le galline hanno le più? Le più? Le galline hanno le più? Le più? Le più? Le più? Le piume? Ah, le piume, le più. E i conigli, i cani, i gatti hanno la pe? Hanno la pe? Hanno la pe? Hanno la pe? Hanno la pe? Hanno la pe? La peluria? Hanno la pelliccia! La pelliccia, la peluria! Ma i topi che vanno in città vuole che vadano nudi, senza un minimo d'abbigliamento, ma lei andrebbe nudo in città! Ma io non posso andare in città perché dovrebbero andarci i topi, Ma le manca del tutto il senso comunitario. È per questo che non si vuole sposare. Certo, se non legge giornali. Non siamo soli a questo mondo. Pensi a tutti quei topi nudi nella miseria, dimenticati dalle autorità. E il diritto allo svago ha un minimo d'abbigliamento. Le ho già detto che basta un cappellino per incoraggiarle. Ma è comunque... Ora le insegnerò a fare vestitini per tuofi. Deve prendere la stoffa e tagliare la striscia più o meno di questa misura qui. Ma non so nemmeno quanto sono grossi. Aspetti, gliene porto uno. Ne ho 5 in una scatola. Ecco qua. Vuole misurarlo? No, mi fa schifo. Forse anche lei fa schifo al topo. Non crede alla fratellanza universale? Ma butti via quel coso dalla finestra. No, potrebbe spezzarsi una zampina. Ora lo metto qui per terra. Vabbè. Vede, si è bloccato, ha paura del gatto, lo metto sotto il suo letto, ecco. Sotto il mio letto? Ma io ho paura del topo! Oh, insomma, come ha visto, i gonnellini portano un'asola col bottone, ma quei dettagli ci penso io. Lei, per cominciare, badi all'orlo. Poi... vedremo...